Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1813. Nasce la sesta coalizione antifrancese, Bonaparte è di nuovo sconfitto, disfatta a Lipsia. Murat tradisce Napoleone, abolito il blocco continentale, l'esercito di Napoli prende Roma e arriva fin nelle Marche. Bolivar assume il potere a Caracas, il Venezuela è indipendente. L'Italia è un nuovo grande compositore, teatri pieni per il Tancredi e l'Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Ancora una volta, dopo la disastrosa campagna di Russia dell'anno scorso, Napoleone è battuto. La Francia sola contro tutti. Non è la prima volta che accade nell'ultimo quindicennio, ma alla fine di questo 1813 Gran Bretagna, Russia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia e gli stati tedeschi e italiani riuniti nella sesta coalizione sembrano davvero vicini a fermare Napoleone una volta per tutte. Nella prima parte dell'anno il timore di confrontarsi con il suo genio militare ha prevalso. Così lo scontro finale è stato preceduto da vittorie minori contro i luogotenenti francesi. La svolta è arrivata dopo il fallimento dell'assedio di Berlino da parte del generale Oudinot. Bonaparte ha riorganizzato i suoi uomini intorno alla città di Lipsia e qui, più che l'abilità dei comandanti, è stato determinante il rapporto di forze. Meno di 200.000 i francesi, impediti a farsi raggiungere dai rinforzi, più del doppio gli alleati che hanno di fatto accerchiato le truppe bonapartiste. Napoleone ha ordinato la ritirata e ha dato il comando di far saltare il ponte sull'Elba. Per l'errore di un sottoposto, tuttavia, l'esplosione si è verificata mentre i francesi affollavano il ponte e molti non lo avevano ancora passato. La sconfitta è stata decisiva e i territori a est del Reno non sono più di Parigi. Gli alleati ormai progettano l'invasione della stessa Francia. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Alla battaglia ha partecipato anche il re di Napoli, Gioacchino Murat, considerato uno dei fedelissimi dell'imperatore. Ebbene, sembra che non lo sia più. Dopo l'avvio di trattative segrete con l'Austria, ha abolito il blocco continentale nel suo regno e ha fatto avanzare l'esercito verso nord, conquistando Roma e Ancona. Il suo obiettivo è di dominare l'intera penisola. Nel Sud America proseguono le guerre contro la dominazione spagnola. In una Caracas devastata dal terremoto che l'anno scorso ha raso al suolo il 90% della città, il rivoluzionario Simón Bolívar ha proclamato l'indipendenza appunto del Venezuela, diventandone di fatto il dittatore. Nel frattempo anche una giunta messicana ha proclamato l'indipendenza, ma sembra che gran parte del territorio sia ancora sotto il controllo di Madrid. L'Italia ha scoperto di avere un nuovo genio musicale. Si tratta del 21enne Gioacchino Rossini, autore d'opera molto prolifico che sta riscuotendo grandissimo successo. Pesarese d'origine, in questo 1813 è riuscito a far rappresentare ben 4 suoi lavori, dopo i 5 dell'anno scorso. L'occasione fa il ladro, il signor Bruschino, ma soprattutto il Tancredi e l'Italiana di Algeri, che stanno già diventando dei classici. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con le immagini e le notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento o farlo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.